Capitolo 25. Il mese di attesa era trascorso, le sue ultime ore erano contate. Nulla più avrebbe ritardato il giorno che si avvicinava, il giorno delle mie nozze, e tutto era pronto per la cerimonia. Io, perlomeno, non avevo più nulla da fare. Ecco là i miei bauli pronti, chiusi e disposti in fila lungo il muro della mia camera, e il giorno dopo, a quell'ora, sarebbero stati in viaggio verso Londra ed io con loro, se così piaceva a Dio, o meglio, non io, ma una certa Jane Rochester, una persona che non conoscevo ancora. Non restava che da incollare i cartellini con gli indirizzi, 4 in tutto, che erano già pronti in un cassetto. Il signor Rochester aveva scritto da sé quegli indirizzi, signora Rochester, albergo, Londra, ma non avevo ancora potuto decidermi a incollarli o a farli incollare sui bauli. La signora Rochester non esisteva ancora, non sarebbe nata fino al giorno dopo verso le 8 di mattina ed io volevo essere certa che nascesse viva prima di riconoscere la proprietà di tutte quelle cose. Era già molto che nello spogliatoio, di faccia alla specchiera, i vestiti che si diceva fossero suoi avessero preso il posto del mio abito nero di Lowood e del cappello di paglia, perché certo quella veste nuziale color perla e quel velo vaporoso appesi al mio attaccapanni non mi appartenevano. Chiusi la porta per non vedere quella seta e quel velo che sembravano fantasmi e che nella penombra della stanza a quell'ora di sera, erano le 9, mandavano uno strano scintillio. «Vi lascerò sole», dissi, «chiare apparizioni. Sono febbricitante, fuori, sento soffiare il vento e voglio uscire per sentirne la carezza». Non era soltanto il trambusto dei preparativi a rendermi nervosa, né il grande cambiamento che si avvicinava, l'idea della nuova vita che avrebbe avuto inizio domani. Queste due circostanze contribuivano senza dubbio a darmi quell'inquietudine, quella eccitazione che mi spingeva a errare nel giardino buio a ora così tarda, ma ve n'era una terza che determinava più delle altre il mio stato d'animo. La mia mente era tormentata da uno strano pensiero. La sera prima era accaduto qualche cosa che non riuscivo a capire, nessuno aveva visto o udito nulla all'infuori di me. Durante la giornata il signor Rochester era uscito di casa e a sera non era ancora ritornato. I suoi affari lo avevano chiamato in una delle sue proprietà, 2 o 3 fattorie a 30 miglia da Thornfield, affari che doveva sbrigare di persona prima della progettata partenza dall'Inghilterra. Ed io aspettavo il suo ritorno, ansiosa di togliermi quel pensiero dalla mente e di cercare con lui la soluzione dell'enigma che mi tormentava. «Rimani con me fino al suo ritorno, lettrice, e sarai a parte della confidenza quando gli rivelerò il mio segreto». Mi diressi verso l'orto per trovare riparo dal vento che aveva soffiato tutto il giorno senza portarci nemmeno un po' di pioggia. Invece di scemare, col calar della notte la sua violenza aumentava, facendo stormire gli alberi, che si piegavano tutti dalla stessa parte senza poter voltarsi in altra direzione, e riuscendo sì e no una volta in un'ora a raddrizzarsi, tanta era la forza delle raffiche che inclinavano i loro rami verso settentrione. Le nuvole correvano rapide e dense da un polo all'altro, e in quella giornata di luglio non si era visto un lembo di cielo azzurro. Provavo un piacere selvaggio a correre così, spinta dal vento, e a stordire il mio spirito turbato in mezzo al torrente d'aria che mi rombava attorno, riempiendo lo spazio da ogni lato. In fondo al vialetto dei Lauri mi trovai di fronte all'ippocastano colpito dalla folgore. Era nero e secco, e il tronco spezzato in due mostrava uno squarcio pauroso. Le due parti non erano del tutto staccate l'una dall'altra, perché le solide radici e la base ancora ferma le teneva unite, ma la vita comune era distrutta. La linfa non poteva più scorrere. Da ogni lato i rami ricadevano morti e le tempeste del prossimo inverno avrebbero di certo abbattuto per sempre l'ippocastano. Ma per ora quei due monconi formavano ancora un albero, anche se un albero in rovina. «Fate bene a tenervi unite», dissi, come se le due parti dell'arboreo gigante fossero esseri viventi e potessero ascoltarmi. «Credo che, anche schiantate e annerite come siete, conserviate ancora un po' di vita, che nasce dall'unione delle vostre fedeli e oneste radici. Non vi ricoprirete più di verdi foglie, gli uccelli non faranno più nidi né canteranno più tra i vostri rami, il tempo del piacere e dell'amore è passato, ma voi non siete disperate perché ognuno di voi ha un compagno che gli rimane accanto col suo affetto nella rovina». Mentre guardavo l'albero, la luna apparve un istante, tutta arrossata e velata dalle nubi, nello spicchio di cielo tra i monconi. Parve fissarmi un attimo con uno sguardo lugubre, poi scomparve di nuovo dietro la coltre della nuvolaglia. Per un momento il vento cadde attorno a Thornfield, ma in lontananza il suo gemito triste trascorreva ancora sopra i boschi e l'acqua, e tutto era tanto malinconico che mi allontanai correndo. Mi aggirai nell'orto, raccogliendo ogni tanto le mele cadute sull'erba ai piedi delle piante. Mi divertii a separare quelle mature dalle altre e poi le portai in casa e le riposi in dispensa. Dopodiché entrai in biblioteca per assicurarmi che il fuoco fosse acceso, perché, sebbene fosse estate, sapevo che in una sera così triste il signor Rochester avrebbe gradito di trovare un bel fuoco ritornando a casa. Sì, il caminetto era acceso e ardeva bene. Vi accostai la poltrona e anche un tavolino, chiusi i cortinaggi e feci portare le candele. Quando questi preparativi furono terminati, ero più inquieta che mai. Non riuscivo a star seduta né a rimanere in casa. L'orologio della biblioteca e la pendola del vestibolo batterono le 10. «Com'è tardi!» esclamai tra me. «Andrò fino ai cancelli, c'è un po' di luna a momenti, così non farò tutta la strada al buio. Forse gli sta per arrivare e andandogli incontro abbrevierò l'attesa». Il vento soffiava tra i grandi alberi che fiancheggiavano i cancelli, ma sia a sinistra che a destra, fin là, dove giungeva l'occhio, la strada era silenziosa e solitaria. Non fosse stato per le ombre che la luna vi gettava ogni tanto, uscendo dalle nuvole. Una lacrima puerile mi velò la vista, una lacrima di delusione e di impazienza. L'asciugai, vergognandomi di me stessa, e feci qualche passo. La luna era scomparsa, del tutto, dietro fitti nuvoloni. La notte si fece ancor più buia e il vento portò le prime gocce di pioggia. «Oh, se arrivasse!» esclamai, colta da tristi presentimenti. L'avevo aspettato per l'ora del tè, invece era notte e non tornava ancora. Che cosa l'aveva trattenuto? Egli era forse accaduto un incidente? Allora ricordai l'avvenimento della notte prima e l'interpretai come un annunzio di sventura. Temevo che le mie speranze fossero troppo belle per avverarsi ed ero stata tanto felice negli ultimi tempi che ora avevo paura che la mia buona stella, oltrepassato il vertice della sua parabola, fosse già al declino. «Non posso tornare in casa», pensavo, «non sarei capace di rimanere accanto al fuoco, sapendolo fuori con questo brutto tempo. Meglio stancarmi le membra che tormentarmi il cuore, voglio andargli incontro». Così mi misi in cammino a passo rapido, ma non andai lontano. Non avevo ancora percorso un quarto di miglio che udii un serrato rumore di zoccoli, infatti ecco avanzare a galoppo un cavaliere con un cane che gli correva accanto. Basta, con i tristi presentimenti, era lui, montato su Mesrur e seguito da pilota. Mi vide, perché la luna s'era aperta un varco tra le nubi e brillava nel cielo dilavato. Si tolse il cappello sventolandolo in segno di saluto ed io gli corsi incontro. «Ah!» esclamò stendendomi la mano e chinandosi verso di me. «Non può fare a meno di me, questo è evidente. Metta il piede sul mio, mi dia le mani e salga!» Ubbidì, la gioia mi rendeva agile, in un balzo fui seduta in arcione davanti a lui. Un caldo bacio mi diede il benvenuto e sopportai che mi guardasse con espressione di trionfo. Ma frenando la propria esultanza, egli mi chiese: «Che cosa è accaduto, Jane? Perché lei mi è venuta incontro a quest'ora? Qualche cosa di male?» «Nulla, ma mi sembrava che non tornasse mai e non potevo rimanere ad aspettarla in casa, specie con quest'acqua e questo vento». «Acqua e vento, è vero, e lei è bagnata come una ninfa delle fonti. Si avvolga nel mio mantello, ma Jane, lei deve avere la febbre. Le sue mani scottano e anche il viso, mi dica, è successo qualcosa?» «Nulla, va tutto bene, non sono più né impaurita né infelice». «Allora prima lo era?» «Un poco, le racconterò tutto più tardi, signore, ma sono certa che lei riderà delle mie angosce». «Riderò volentieri quando sarà passata la mattina di domani. Fino allora non oso, perché il mio premio è ancora incerto. Perché in quest'ultimo mese mi è sempre sgusciata di mano come un'anguilla ed è stato più pungente di un cespuglio di rose. Dovunque posassi un dito mi pungevo. Ed ora invece mi sembra di avere raccolto tra le braccia un agnello smarrito. Si è allontanata dall'ovile per cercare il suo pastore, non è vero, Jane?» «Sì, avevo bisogno di lei, ma non ne vada troppo fiero. Eccoci, a Thornfield. Mi lasci scendere». Egli mi calò sul marciapiede e mentre John conduceva via il cavallo mi seguì nel vestibolo dicendomi di andare in fretta a cambiarmi d'abito e poi di raggiungerlo in biblioteca. Mentre stavo per salire le scale mi fermò per farmi promettere che mi sarei sbrigata e infatti 5 minuti dopo ero di ritorno. Lo trovai seduto a tavola. «Prenda una sedia e mi tenga compagnia, Jane. Se Dio vuole, questo sarà il penultimo pasto che faremo a Thornfield per molto tempo». Mi sedetto accanto a lui, ma gli dissi che non mi sentivo di mangiare. «È forse la prospettiva del viaggio di domani, Jane? Il pensiero di andare a Londra le toglie l'appetito? Questa sera non vedo ben chiari i progetti per il mio avvenire e non posso dire quali pensieri mi passino per la mente. Tutto mi sembra irreale, eccetto me. Io sono di carne ed ossa, mi tocchi. E invece proprio lei, signore, mi pare più reale di qualunque altra cosa. Mi sembra un fantasma o soltanto un sogno. Mi stese la mano ridendo. Questa è un sogno? Disse mettendomela sotto gli occhi. Aveva una mano piena, muscolosa e forte e un braccio lungo e vigoroso. Sì. Anche se posso toccarla è soltanto un sogno, risposi allontanandola dal mio viso. Ha finito di cenare, signore? Sì, Jane. Suonai e feci portar via il vassoio. Quando fummo di nuovo soli, attizzai il fuoco e mi sedetti su uno sgabello ai piedi del mio padrone. È quasi mezzanotte, dissi. Sì, ma ricordi, Jane, che lei ha promesso di vegliare con me la notte precedente le mie nozze. Lo so, e manterrò la promessa almeno per un'ora o due. Non ho voglia di andare a letto. I preparativi sono tutti ultimati? Tutti, signore. Anche i miei? Disse. Ho sistemato ogni cosa e lasceremo Thornfield domattina, mezz'ora dopo il ritorno dalla chiesa. Benissimo, signore. Con che strano sorriso ha pronunziato questa parola, benissimo. È tutta arrossata in viso e come le brillano gli occhi. Si sente bene, Jane? Credo di sì. Credo? Ma che cosa c'è? Mi dica quel che sente. Non posso, signore. Nessuna parola potrebbe esprimere ciò che provo. Vorrei che quest'ora non finisse mai, chissà che cosa può recarci il destino in quelle che seguiranno. Ah, oh, questa è ipocondria, Jane, lei è troppo agitata, o si è stancata troppo. E lei, signore, si sente calmo e felice? Calmo no, ma felice sì, sino in fondo al cuore. Alzai gli occhi su di lui per leggergli in viso il segno della gioia e vidi che era ardente e appassionato. Si confidi con me, Jane. Mi disse, liberi la sua mente dal peso che l'opprime parlandone con me. Che cosa teme? Che io non sia un buon marito? È un'idea che non ha mai sfiorato il mio cervello. La preoccupa la diversa condizione in cui verrà a trovarsi o la nuova vita che sta per cominciare? No, non la capisco, Jane. Nel suo sguardo e nel suo tono ardito mi sembra di sentire non so quale angoscia e ciò mi rattriste e mi rende perplesso. Desidero una spiegazione. Allora ascolti, signore. La notte scorsa lei non era a casa? No, so che si riferisce a questo perché poco fa mi ha detto che è accaduto qualche cosa durante la mia assenza. Probabilmente nulla di grave, ma ne è rimasta turbata. Mi dica di che si tratta. Forse la signora Fairfax le ha detto qualcosa? O ha udito una frase della servitù che l'ha ferita nel suo suscettibile amor proprio? No, signore. Suonò la mezzanotte. Attesi che l'orologio della biblioteca scandisse l'ultimo colpo con la sua voce argentina. E che anche le sonore vibrazioni della grande pendola del vestibolo cessassero, poi continuai. Ieri sono stata molto occupata tutto il giorno ed ero felice di quel mio indaffarato andirivieni, poiché non mi turba affatto l'idea della mia nuova condizione e tutto il resto. La speranza di poter vivere con lei mi colma di gioia, perché l'amo. No, non mi accarezzi ora, mi lasci parlare senza interrompermi. Ieri confidavo nella provvidenza e credevo che tutto cooperasse alla nostra felicità. Era una bella giornata, si ricorda, il cielo sereno e l'aria mite allontanavano da me qualsiasi apprensione per il suo viaggio. Nel pomeriggio ho passeggiato un poco davanti alla casa pensando a lei. La vedevo con l'immaginazione, così vicino a me che quasi non mi accorgevo della sua assenza. Pensavo alla vita che stava per cominciare per me, alla sua vita, signore, più vasta e più agitata della mia, esattamente come il mare nel quale si gettano i ruscelli è più vasto e profondo di un canale chiuso tra le terre. Mi chiedevo perché mai i moralisti chiamino questo mondo un lugubre deserto. A me sembrava in fiore come un cespo di rose. Verso il tramonto l'aria si raffreddò e il cielo si fece nuvoloso. Rientrai in casa e Sophie mi chiamò di sopra a vedere l'abito da sposa che avevano portato allora. Sotto il vestito, in fondo alla scatola, trovai il suo regalo, signore, il velo che con principesca stravaganza aveva fatto venire da Londra per costringermi ad accettare, suppongo, qualche cosa di non meno prezioso dei gioielli che avevo rifiutato. Sorrisi, spiegandolo, decise a canzonarla per i suoi gusti aristocratici e per gli sforzi che faceva al fine di rivestire la sua sposa plebea degli attributi di una gentildonna. Pensavo a come avrei fatto a mostrarle il pezzetto di tulle senza ricami che io stessa avevo preparato per coprire la mia testa di ragazza dagli umili natali e a chiederle se non fosse più adatto per una donna che non portava al marito né beni, né bellezza, né relazioni. Mi pareva già di vedere lo sguardo che mi avrebbe lanciato e di udire la sua democratica risposta. Già la sentivo affermare sdegnosamente che lei non aveva alcun bisogno di accrescere la propria ricchezza, né di elevare la propria posizione sposando una borsa o una corona nobiliare. «Come sa leggere bene dentro di me, strega!» esclamò il signor Rochester. «Ma che cosa ha trovato nel velo oltre i ricami? Il veleno? Un pugnale? Perché ora si sia fatta così cupa?» «No, signore, quel velo prezioso e delicato non celava altro che l'orgoglio dei Rochester. Ma quello non mi spaventa, ormai vi sono abituata. Col calar della sera il vento crebbe. Ieri non soffiava come ora, violento e impetuoso, ma faceva udire un gemito assai più triste e lugubre. Avrei desiderato che lei fosse a casa. Veni qui e la vista della poltrona vuota e del fuoco spento mi diede freddo al cuore. Poco dopo a letto non riuscivo ad addormentarmi, agitata com'ero da un'ansia inesplicabile. Mi sembrava che il sibilare del vento soffocasse un suono basso e doloroso. Sulle prime non avrei saputo dire se quel suono proveniva dalla casa o dall'esterno, ma si ripeteva di continuo, dolente e vago al tempo stesso. Infine pensai che fosse qualche cane che ululava in distanza. Ma mi sentii sollevata quando il rumore cessò. Nel sonno, tuttavia, quella notte buia e tempestosa, tornò a perseguitarmi e anche dormendo continuavo a desiderare la sua presenza, signore, e provavo vagamente la penosa impressione che una barriera ci separasse. Durante la prima parte dei miei sogni credetti di seguire le sinuosità di un cammino ignoto. Una oscurità completa mi circondava, ero inzuppata dalla pioggia e reggevo un bambino, troppo piccolo e troppo debole per camminare e che rabbrividiva tra le mie braccia fredde, piangendo angosciosamente. Credevo, signore, che anche lei fosse su quella strada, ma assai più avanti, e mi sforzavo di raggiungerla. Facevo sforzi sopra sforzi per pronunciare il suo nome e scongiurarla di fermarsi, ma le mie gambe erano incatenate e la voce mi moriva sulle labbra, mentre lei, sentivo, si allontanava sempre di più. «E questi sogni opprimono la sua mente anche ora che le sono vicino, Jane? Lei è troppo nervosa. Dimentichi i dolori fittizi e pensi solo alla sua felicità reale. Dice di amarmi, Jane. Non lo dimenticherò e lei non può più negarlo. Quelle parole non si sono spente sulle sue labbra, le ho udite chiaramente. Erano dolci e forse un po' solenni, ma sempre soavi come una musica. La speranza di poter vivere con lei mi colma di gioia perché l'amo, Edward. Mi ama, Jane? Lo ripeta. Sì, signore, l'amo con tutto il cuore. È strano, disse dopo qualche minuto di silenzio. È strano, questa sua frase mi ha come ferito. Perché? Forse perché l'ha detta in modo così grave e convinto, come se fosse un credo religioso, e perché nello sguardo che ora alza su di me vi è una fede, una lealtà, una devozione così grande che mi sembra quasi d'avere uno spirito al mio fianco. Perché non ha più quell'aria perfida che sa assumere così bene, Jane? Su, accendi uno dei suoi sorrisi timidi, provocanti e misteriosi. Mi dica che mi odia, mi provochi, mi irriti, faccia qualunque cosa, ma non mi sgomenti. Preferisco essere irritato e indignato che rattristato. La provocherò e l'irriterò finché vorrà, quando avrò finito il mio racconto, ma ora mi ascolti sino alla fine. Credevo, Jane, che mi avesse detto tutto e che la fonte della sua malinconia fosse quel sogno. Scossi il capo. «Come? C'è dell'altro? Ma non voglio credere che sia così importante. L'avverto in anticipo della mia incredulità. Continui». La sua aria inquieta e l'apprensiva impazienza che notai nelle sue maniere mi sorpresero, ma ripresi a narrare. «Feci un altro sogno, signore. Thornfield non era più che una rovina deserta, un covo di pipistrelli e di civette. Della sua nobile facciata non rimaneva che un altissimo muro sottile dall'aspetto fragile. C'era la luna ed io vagavo tra l'erba cresciuta sopra l'area del castello distrutto, inciampando ora contro il marmo di un camino, ora contro un frammento di cornicione. Avvolta in uno scialle portavo sempre il bambino ignoto e non potevo posarlo in nessun luogo, nonostante la stanchezza che sentivo nelle braccia. Sebbene il suo peso mi intralciasse il passo, dovevo custodirlo. Ad un tratto udii in lontananza il galoppo di un cavallo. Sapevo che era il mio padrone che partiva per molti anni e per un paese lontano. Mi arrampicai sul muro con rapidità febbrile ed imprudente, ansiosa di rivederlo un'ultima volta di lassù. Le pietre rotolavano sotto i miei piedi, i tralci d'edera ai quali mi aggrappavo si spezzavano, il bambino mi si stringeva al collo terrorizzato e poco mancava che non mi strangolasse. Finalmente arrivai in cima al muro. Il mio padrone era come una macchia su una linea bianca e ad ogni istante rimpiccioliva sempre di più. Il vento soffiava così forte che non potevo reggermi in piedi. Mi sedetti in cima al muro e calmai sul mio seno il bambino spaventato. Vidi il mio padrone girare una curva della strada. Mi sporsi per scorgerlo ancora. Il muro oscillò, si inclinò Il bimbo mi scivolò dal grembo, perdetti l'equilibrio, caddi e mi svegliai. È tutto qui, Jane? Tutto il preambolo, signore. La storia viene dopo. Quando mi svegliai, una luce mi colpì negli occhi. È giorno, pensai, ma sbagliavo. Era soltanto la luce di una candela. Supposi che fosse entrata Sophie. C'era un lume sul tavolino a specchiera e la porta dello spogliatoio, dove prima di coricarmi avevo riposto il mio abito da sposa con il velo, era aperta. Sentii un rumore in quell'angolo e domandai: Sophie, che cosa sta facendo? Nessuno rispose, ma una figura uscì dallo spogliatoio, prese il lume, lo alzò per meglio esaminare la veste appesa a un attaccapanni. Sophie, Sophie! Gridai di nuovo, e di nuovo nessuno rispose. M'ero seduta sul letto, sporgendomi in avanti. Sulle prime ero solo sorpresa, poi sgomenta, infine la paura mi agghiacciò il sangue nelle vene. Signor Rochester, non era Sophie, né Lia, né la signora Fairfax, non era nemmeno, no, ne sono certa. Non era nemmeno quella strana donna che lei tiene qui, Grace Poole. Ma doveva ben essere una di loro, mi interruppe il mio padrone. No, signore, le assicuro di no. La figura che mi stava davanti, io non l'avevo mai incontrata prima tra le mura di Thornfield. La figura, il viso mi erano affatto nuovi. Me la descriva, Jane. Era una figura femminile, alta e robusta, con folti capelli neri sparsi sulle spalle. Non saprei dire che vestito indossasse, bianco e diritto, questo sì, ma se poi fosse veramente un vestito, o non piuttosto un lenzuolo, non lo so. L'ha veduta in viso? In principio no, ma poi prese il mio velo, lo sollevò, lo rimirò a lungo e gettandoselo sul capo si voltò verso lo specchio. In quel momento vidi perfettamente il suo viso e i suoi tratti riflessi nel cristallo. E com'erano? Mi sembrarono paurosi, signore. Oh, non avevo mai veduto un viso come quello, selvaggio, allucinato, con gli occhi striati di sangue che roteavano nelle orbite. Come vorrei dimenticare quei lineamenti enfiati e stranamente scuri. I fantasmi di solito son pallidi, Jane. Quello, signore, era color porpora. Aveva le labbra nere e gonfie, la fronte aggrottata, le scure sopracciglia rialzate sugli occhi iniettati di rosso. Devo dirle che cosa mi ha ricordato? Quel fantasma? Sì, mi ha ricordato l'orrendo spettro tedesco che si chiama vampiro. Ah, e che fece poi? Si tolse il velo dal capo, signore, lo lacerò in due, lo gettò a terra e lo calpestò sotto i piedi. E poi? Sollevò le tende della finestra e guardò fuori. Forse vide spuntare il giorno, perché prendendo il lume si diresse verso la porta. Ma giunta accanto al mio letto, la figura si fermò. I suoi occhi fiammeggianti mi fissarono e, avvicinato il lume alla mia faccia, lo spense proprio sotto i miei occhi. Dall'alito ardente che mi sfiorava, capii che il suo orribile viso era vicinissimo al mio e smarrii i sensi. Per la seconda volta nella mia vita, soltanto la seconda, svenni di paura. Chi era con lei quando ha ripreso conoscenza? Nessuno, signore, fuorché la luce del giorno. Mi alzai, mi bagnai la testa e il viso e bevvi. Mi sentivo bene, anche se un po' debole, e decisi di non confidare a nessuno fuorché a lei la mia visione. Ed ora, signore, mi dica chi è o che cos'era quella donna. Ah, la fantasia di un cervello esaltato, questo è certo. Devo avere molta cura di lei, tesoro mio. Nervi come i suoi devono essere trattati con riguardo. Mi creda, signore, i miei nervi non hanno nulla a che fare in tutto ciò. La figura era reale e quanto ho narrato è accaduto veramente. E i suoi sogni precedenti erano veri anche quelli? Thornfield è forse in rovina? Forse che ostacoli insormontabili ci separano, Jane? Forse che la lascio senza una lacrima, senza un bacio, una parola? Non ancora. Oh, sono forse sul punto di farlo? Ma come? Il giorno che deve unirci indissolubilmente è già cominciato e quando lei sarà mia queste paure immaginarie non torneranno più. Me ne rendo garante. Paure immaginarie, signore? Vorrei credere che fossero tali. Lo desidero più che mai, ora che nemmeno lei può spiegarmi il mistero di quella visita sinistra. E poiché nemmeno io posso spiegarlo, bisogna dedurne, Jane, che è tutto frutto di immaginazione. Ma, signore, quando stamani alzandomi ho detto a me stessa la medesima cosa, e per rinfrancarmi ho guardato tutti gli oggetti che mi sono familiari e che avevano un aspetto così gaio, alla luce del giorno, là sul tappeto. Vidi la prova irrefutabile della realtà dell'accaduto, il mio velo lacerato in due. Mi accorsi che il signor Rochester trasaliva, poi mi attrasse nervosamente a sé. Sia lodato il cielo, esclamò con un fremito, che se un essere malefico le sia avvicinato la notte scorsa, soltanto il velo ne è rimasto vittima. Oh, se penso a ciò che poteva accadere! Era tutto un ansante e mi stringeva così forte tra le braccia che quasi non riuscivo a respirare. Dopo qualche minuto di silenzio continuò in tono ritornato allegro. Adesso Jane le spiegherò tutto. Quel che è accaduto è metà sogno e metà realtà. Indubbiamente una donna è entrata in camera sua e quella donna doveva essere Grace Poole. Lei stessa Jane dice che è una strana creatura e per quello che ne sa ha ragione di chiamarla così. Che Che cosa ha fatto a me e a Mason? In uno stato tra la veglia e il sonno, lei l'ha veduta entrare e ha osservato ciò che faceva, ma febbricitante e quasi in delirio com'era, le ha attribuito un aspetto di fantasma che non ha. I lunghi capelli sciolti, il viso gonfio e scuro, la statura imponente non sono che invenzioni della fantasia, il frutto di un incubo, il velo strappato, ecco la sola cosa vera, una cosa di cui quella natura maligna è capace. Vedo che vorrebbe chiedermi perché tenga in casa mia quella donna, dopo un anno e un giorno che saremo uniti, glielo dirò, ma non adesso. È soddisfatta Jane? Accetta la mia spiegazione del mistero? Riflettei un istante, in realtà mi parve la sola possibile. Soddisfatta non lo ero, ma per fargli piacere mi sforzai di sembrarlo. Certo però ero sollevata e così gli risposi con un gaio sorriso. Poi, siccome il tocco era suonato da un pezzo, mi accinsi a lasciarlo. Sophie non dorme in camera con Adele? Mi chiese mentre accendevo il lume. Sì, signore. C'è abbastanza posto per lei nel lettino di Adele. Dorma con la bambina questa notte, Jane. Non è impossibile che l'incidente che mi ha raccontato l'abbia resa nervosa e preferirei che non dormisse sola. Mi prometta di andare nella camera di Adele. Lo faccio volentieri, signore, e chiuda bene la porta dal di dentro. Svegli Sophie quando sarà di sopra, col pretesto di avvertirla che domattina deve alzarsi di buon'ora, perché alle 8 deve essere vestita e avere già fatto colazione. Ed ora non più pensieri tristi, scacci ricordi penosi, Jane. Ascolti, il vento si è calmato. Ora bisbiglia solamente, la pioggia ha cessato di battere contro i vetri. Guardi, aggiunse alzando la tenda, che bella notte. Diceva il vero. Per metà il cielo era sereno. Le nubi, sospinte dal vento che ora spirava da occidente, fuggivano verso oriente in lunghe colonne argentee. La luna splendeva tranquilla. Ebbene, mi disse il signor Rochester guardandomi negli occhi, come si sente ora la mia piccola Jane? La notte è serena, signore, e Dio pure. Non sogni né separazioni né tristezze questa notte, ma un amore felice e un'unione benedetta. L'augurio si avverò soltanto a metà. Non feci sogni dolorosi ma neppure felici perché non riuscii a dormire. Con la piccola Adele tra le braccia contemplavo il sonno dell'infanzia così tranquillo, innocente, scevro di passioni e aspettai il giorno dopo. Tutto il mio essere era sveglio e agitato. Non appena sorse il sole anch'io mi alzai. Ricordo che Adele si strinse a me mentre la lasciavo, che la baciai sciogliendomi dalle sue piccole braccia. Poi mi misi a piangere. Colta da uno strano turbamento e mi allontanai per non turbare con i miei singhiozzi il suo sonno ancora profondo. Ella mi sembrava l'emblema della mia vita passata e colui che ero in procinto di raggiungere l'immagine temuta ma adorata della mia vita futura e ancora ignota. Capitolo 26. Sophie venne alle 7 per vestirmi. E impiegò molto tempo in quella bisogna, tanto che il signor Rochester, reso impaziente dal mio ritardo, mandò a domandare perché non scendessi. Sophie stava appuntandomi il velo sui capelli, il mio semplice velo di tulle, e mi sottrassi alle sue mani non appena potei. Aspetti, si guardi allo specchio, mi gridò in francese. Non vi ha neppure gettato un'occhiata? Tornai indietro e vidi nello specchio una donna velata ed elegantemente vestita, così diversa da me stessa che quasi credetti di fissare l'immagine di una sconosciuta. Jane! Chiamò una voce e allora mi affrettai a scendere. In fondo alla scala mi aspettava il signor Rochester. Che cosa ha fatto in tutto questo tempo? Io ardo di impazienza e lei ritarda tanto! Mi disse. Mi condusse nella sala da pranzo e dopo avermi esaminata da capo a piedi attentamente mi dichiarò bella come un giglio e non solo l'orgoglio della sua vita ma il desiderio dei suoi occhi. Poi, dicendomi che non mi concedeva più di 10 minuti per la colazione, chiamò un domestico. Accorse un servo assunto da poco tempo. John ha preparato la carrozza? Sì, signore. Il bagaglio è stato portato giù? Lo portano ora, signore. Allora vai tu alla chiesa e vedi se il signor Wood, il pastore e il chierico sono già là. Ritorna subito a informarmi. La chiesa, come il lettore sa, era poco oltre i cancelli del parco. Il domestico fu subito di ritorno. Il signor Wood è in sacrestia, signore, e si sta vestendo. E la carrozza? I cavalli sono già attaccati. Non ci servirà per andare in chiesa, ma al nostro ritorno deve essere pronta con i bauli e le valigie caricati e legati al cocchiere a cassetta. Sì, signore. Jane è pronta? Mi alzai. Non vi erano damigelle d'onore né paggetti né parenti da aspettare. Eravamo soltanto io e il signor Rochester. La signora Fairfax era nel vestibolo quando lo attraversammo. Le avrei rivolto volentieri una parola, ma la mia mano era stretta in una morsa d'acciaio e venivo trascinata così in fretta che duravo fatica a seguire il signor Rochester. Del resto bastava guardarlo in faccia per capire che per nessun motivo avrebbe tollerato un minuto di indugio. Mi domandavo quale altro fidanzato in un momento simile avesse mai avuto un viso come il suo, un viso che esprimeva fermamente la volontà di attuare il proprio progetto, o che altro mai avesse avuto sotto una fronte tanto ferma e decisa, occhi sia ardenti e fiammeggianti. Non so se la giornata fosse bella o no, percorrendo il viale non guardavo né il cielo né la terra. Il mio cuore stava insieme coi miei occhi ed entrambi fissavano il signor Rochester. Avrei voluto discernere la cosa invisibile su cui, mentre camminavamo, teneva fisso lo sguardo torvo e ardito. Avrei voluto conoscere i pensieri contro i quali gli sembrava di battersi e lottare. Davanti al cancello del cimitero si fermò e si accorse che non avevo più fiato. «Sono crudele nel mio amore», mi disse. «Si riposi un momento, si appoggi a me, Jane». Rammentò ancora l'aspetto tranquillo della vecchia e grigia casa di Dio che avevo davanti e il corvo che svolazzava attorno al campanile nel cielo ancora velato del mattino. Ricordo anche, seppure più vagamente, le sepolture coperte di verde, né ho dimenticato le figure di due forestieri che passeggiavano tra le tombe, leggendo le iscrizioni sulle poche lapidi seminascoste dal muschio. Notai i due sconosciuti perché quando ci videro girarono dietro la chiesa e non dubitai che entrassero dalla porta laterale per assistere alla cerimonia. Il signor Rochester non li vide, guardava preoccupato il mio viso dal quale il sangue sembrava momentaneamente scomparso. Infatti mi sentivo la fronte madida e le guance e le labbra gelate. Poco dopo mi ripresi ed egli mi fece amorevolmente avanzare verso la porta della chiesa. Entrammo nel tempio umile e quieto. Il prete in cotta bianca attendeva davanti all'altare basso e il chierico gli stava accanto. Tutto era silenzioso. Soltanto due ombre si muovevano in un angolo appartato. La mia congettura era giusta. I forestieri erano entrati prima di noi ed ora stavano in piedi presso le sepolture dei Rochester, voltandoci le spalle ed osservando, attraverso la cancellata, la tomba marmorea maculata dal tempo, sopra la quale un angelo inginocchiato vegliava sui resti di Damon Rochester, ucciso nelle paludi di Marston ai tempi delle guerre civili e di Elisabetta, sua moglie. Ci collocammo dietro la balaustra dell'altare. Udendo un passo cauto alle mie spalle, mi voltai. Un signore, uno dei due forestieri, si avvicinava a noi attraverso la navata. Il servizio religioso cominciò, ci fu spiegato l'intento del matrimonio e poi il pastore, facendo un passo avanti e volgendosi leggermente verso il signor Rochester, proseguì. Chiedo ad entrambi di dirmi come fareste nel giorno temuto del giudizio universale in cui tutti i segreti saranno rivelati, se conoscete alcun impedimento alla vostra legittima unione e se lo conoscete di confessarlo qui, affinché sappiate che tutti coloro che non sono uniti nelle condizioni voluti da Dio non sono uniti dinanzi a Lui e il loro matrimonio non è legittimo. Qui tacque, come vuole l'usanza, e quando mai la pausa dopo quella frase viene interrotta da una risposta? Forse nemmeno una volta ogni 100 anni. Vedi il pastore che non aveva alzato gli occhi dal libro e non aveva trattenuto che per un momento il respiro. Stava per continuare. Già la sua mano si era stesa verso il signor Rochester, già le sue labbra si schiudevano per domandare: Vuoi prendere questa donna per tua legittima sposa? Quando una voce chiara disse distintamente vicino a noi: Il matrimonio non si può fare, dichiaro che esiste un impedimento. Il pastore levò gli occhi su colui che aveva parlato e tacque. Il chierico fece lo stesso. Il signor Rochester vacillò leggermente, come se un terremoto avesse fatto tremare il suolo sotto i suoi piedi, ma subito, dominandosi e senza volgere il capo nello sguardo, disse: Si proceda! Un profondo silenzio seguì queste parole, pronunziate con voce bassa ma profonda. Infine il signor Wood riprese: Non posso procedere prima di aver esaminato se quanto è stato asserito è vero o falso. La cerimonia è interrotta, aggiunse la voce dietro a noi. Io sono in condizione di provare ciò che asserisco. Esiste un impedimento insormontabile a questo matrimonio. Il signor Rochester udì, ma non parve fare attenzione a quelle parole. Eretto e rigido e con il viso gelido non fece che un movimento per prendermi la mano. Com'era ardente e forte quella stretta e la sua fronte pallida e impassibile sembrava di marmo in quel momento. Negli occhi cupi gli brillava uno sguardo selvaggio, eppure vigile e attento. Il signor Wood pareva smarrito. Qual è la natura di questo impedimento? Chiese. Forse lo si può appianare o chiarire, si spieghi. Non credo, fu la risposta. Ho detto che è insuperabile, so quel che mi dico. Colui che aveva parlato si fece avanti e si appoggiò alla balaustra, poi continuò pronunziando ogni parola con voce ferma, calma, distinta, ma non forte. L'impedimento consiste semplicemente nell'esistenza di un matrimonio precedente. Il signor Rochester ha una moglie, tuttora vivente. I miei nervi vibrarono a quelle parole pronunziate a voce bassa, come non avevano mai vibrato allo scoppio di un tuono. Il mio sangue ne sentì tutta la violenza e ne fu scosso più che dal fuoco o dal gelo, ma rimasi padrona di me stessa e non temetti di svenire. Guardai il signor Rochester, lo costrinsi a guardarmi, il suo volto era incolore come una pietra, gli occhi soli mandavano lampi. Non negò nulla, sembrava volesse sfidare ogni cosa, senza parlare, senza sorridere, senza dar segno di riconoscere in me un essere umano. Mi cinse la vita con un braccio e mi inchiodò a sé. Chi è lei? Domandò all'intruso. Mi chiamo Briggs, avvocato in via a Londra. E lei mi accusa di avere un'altra moglie? Sono venuto a ricordarle l'esistenza di sua moglie, signore, che la legge riconosce, anche se lei non è di questo avviso. Mi favorisca qualche notizia sul suo conto, come si chiama, chi è la sua famiglia, dove abita. Certamente. Con calma il signor Briggs si tolse di tasca un foglio e lesse con la voce nasale l'accento in colore di un pubblico ufficiale. Affermo e posso provare che il 20 ottobre dell'anno, la data era di 15 anni addietro, Edward Fairfax Rochester di Thornfield Hall nella contea di Ferndean Manor nella contea di in Inghilterra, fu unito in matrimonio a mia sorella Berta Antonietta Mason, figlia di Jonas Mason, mercante, e di Antonietta, sua moglie, creola, nella chiesa di a Spanish Town, Giamaica. L'atto di matrimonio si trova nei registri di tale chiesa, una copia è ora nelle mie mani, firmato Richard Mason. Questo documento, se è autentico, può provare che sono stato sposato, ma non prova che la donna in esso menzionata come mia moglie viva ancora. Viveva 3 mesi fa, ribatté l'avvocato. Come lo sa? Ho un testimone, signore, lei stesso potrà difficilmente contraddirlo. Lo produca o vada al diavolo. Prima lo produrrò. Si trova qui. Signor Mason, abbia la cortesia di farsi avanti. Nell'udire quel nome, il signor Rochester strinse i denti e fu scosso da un tremito convulso. Vicina come gli ero, sentii lo spasmodico sussulto d'ira o di disperazione che gli corse in tutto il corpo. Il secondo forestiero, che fino a quel momento era rimasto nell'ombra, si avvicinò. Un viso smunto apparve al di sopra della spalla dell'avvocato. Sì, era proprio Mason. Il signor Rochester si volse a guardarlo. I suoi occhi, come ho detto più volte, erano neri, ma ora una luce gialla, o meglio sanguigna, li accendeva e il suo viso avvampò. Pareva che il fuoco che gli ardeva nel cuore fosse salito alle sue guance olivastre e alla sua fronte pallida. Si mosse, alzò il braccio poderoso. Avrebbe potuto colpire Mason, gettarlo a terra, togliere con un solo colpo furibondo la vita a quel debole corpo. Ma Mason balzò di lato, spaurito, gemendo. Buon Dio! Allora il disprezzo dominò il signor Rochester. La sua collera si mutò in una gelida asprezza e chiese solamente: E lei che cosa ha da dire? Una risposta inintelligibile uscì dalle labbra smorte di Mason. Qui c'è immischiato il diavolo se non sa rispondere distintamente. Le chiedo di nuovo, che cos'ha da dire? Signor Rochester, lo interruppe il pastore, non dimentichi che si trova in chiesa. E poi rivolgendosi a Mason, lei è certo che la moglie del signor Rochester sia viva? Coraggio, lo incitò il legale, parli. È viva e abita a Thornfield Hall, disse Mason con voce un po' più chiara. L'ho veduta lo scorso aprile, sono suo fratello. Alla villa di Thornfield, esclamò il pastore. Impossibile, abito qui da molto tempo e non ho mai sentito parlare di una signora Rochester alla villa di Thornfield. Vidi un torvo sorriso stirare le labbra del signor Rochester, che mormorò: No, per Dio, ho avuto cura che nessuno sapesse della sua esistenza o perlomeno conoscesse il suo vero nome. Tacque e per una decina di minuti parve che si consigliasse con se stesso, poi riprese deciso: Basta. La verità si farà strada ora, scoppiando come una bomba. Wood, chiuda il libro e si tolga i paramenti, e lei, John Crean, al chierico, se ne vada di qui. Oggi non si celebra più nessun matrimonio. Il chierico ubbidì. Il signor Rochester continuò audacemente e rapidamente. La parola bigamia suona male alle nostre orecchie, eppure volevo essere un bigamo, ma il destino ha sventato i miei progetti, o forse piuttosto la provvidenza non l'ha voluto. In questo momento non sono molto migliore di un demonio, e come direbbe il mio pastore, qui merito indubbiamente il più severo giudizio di Dio. Merito di essere dannato alle fiamme eterne e all'eterno rimorso. Signori, il mio piano è crollato. Ciò che quel legale e il suo cliente affermano è vero. Io sono stato sposato e mia moglie vive. Wood, lei dice di non aver mai sentito parlare di una signora Rochester alla villa, ma credo che abbia spesso prestato orecchio alle dicerie che correvano sulla misteriosa pazza custodita in casa mia, con ogni riguardo, ma anche sotto buona guardia. Qualcuno sarà venuto a dirle che si trattava di una mia sorella bastarda, qualche altro di un'antica amante. Ora io la informo che quella donna è mia moglie. L'ho sposata 15 anni fa, si chiama Berta Mason ed è sorella di quel coraggioso personaggio che vede là, pallido e tremante, e che le dimostra che cosa possa sopportare un forte cuore virile. Stia allegro, Dick, non abbia paura di me. Percuotere lei sarebbe come percuotere una donna. Berta Mason è pazza ed esce da una famiglia di pazzi, idioti o maniaci da 3 generazioni. Sua madre, la creola, era pazza e alcolizzata, come scopersi dopo averne sposato la figlia, perché prima mi avevano tenuto ben celato il segreto di famiglia. Berta, da figlia devota, imitò sua madre in tutto. Oh, avevo una compagna adorabile, pura, saggia e modesta. Potete immaginare come fossi felice e che scene edificanti avessi sotto gli occhi. Ho fatto una bella esperienza, ve lo assicuro, ma vi devo più ampie spiegazioni. Briggs, Wood, Mason, vi invito tutti a salire alla villa e a far visita alla paziente della signora Poole, cioè a mia moglie. Vedrete che specie di donna ho preso in moglie per l'altrui malafede e giudicherete se avevo o no il diritto di spezzare quel legame e di cercare la compagnia di un essere perlomeno umano. Questa ragazza, riprese guardandomi, non conosceva, meglio di lei, Woody, il disgustoso segreto. Credeva che tutto fosse onesto e legale e non supponeva certo di trovarsi intrappolata in un'unione falsa a fianco di un miserabile già ammogliato a una creatura pazza, malvagia e abbrutita. Venite, seguitemi tutti. Lasciò la chiesa, tenendomi sempre stretta. I 3 uomini ci seguirono. All'ingresso della villa trovammo la carrozza che ci aspettava. Riportala in rimessa, disse freddamente il signor Rochester a John. Per oggi non serve più. Quando entrammo in casa, la signora Fairfax, Adele, Sophie ci vennero incontro per congratularsi con noi. Indietro tutti! Gridò il signor Rochester. E basta con le felicitazioni, non ne abbiamo bisogno. Per me almeno giungono 15 anni troppo tardi. Passò oltre, cominciò a salire la scala, tenendomi sempre per la mano e continuando a fare cenno ai signori di seguirlo. In cima allo scalone attraversammo la galleria e infine giungemmo al terzo piano. La piccola porta scura fu aperta dal signor Rochester ed entrammo nella stanza dalle tappezzerie di stoffa con l'ampio letto e l'armadio scolpito. Lei conosce questa stanza, Mason, disse il padrone. È qui che sua sorella l'ha ferito e morso. Sollevò il lembo di tappezzeria che celava l'altra porta e l'aperse. In una camera senza finestre, il fuoco era acceso dietro un alto solido parafuoco ed una lampada che scendeva dal soffitto la rischiarava. Grace Poole era china sopra il fuoco, occupata a far cuocere qualche cosa. Nell'angolo più buio, all'altra estremità della stanza, si muoveva una figura. A prima vista non si capiva se fosse un animale o un essere umano, perché camminava a carponi ed emetteva un roco ululato da bestia selvatica, ma era vestita e una massa di neri, capelli striati di grigio e scarmigliati, come una criniera, le celava il viso. «Buongiorno, signora Poole», disse il signor Rochester. «Come sta lei e come sta la malata?» «Discretamente, signore, la ringrazio», rispose Grace, alzando con precauzione il bricco che bolliva. È agitata, ma non furiosa. Un urlo selvaggio smentì subito il favorevole rapporto. La iena, vestita da donna, si alzò e rimase eretta in tutta la sua statura. «Oh, signore, l'ha veduto!» esclamò Grace. «È meglio che vada via!» «Soltanto pochi minuti, Grace, me li deve concedere. Allora stia in guarda, signore, stia in guardia, per carità!» La pazza lanciò un altro urlo e, scostando dal viso le ciocche scomposte, fissò i visitatori con uno sguardo selvaggio. Riconobbi subito quel volto acceso, quei tratti enfiati. La signora Poole avanzò verso di noi. Si tolga di mezzo, le intimò il signor Rochester, spingendola da parte. Non avrà il coltello oggi, spero, e comunque sto bene attento. Non si può mai sapere se è armata o no. È così furba e dà una forza che non è facile resisterle. Faremo bene ad andarcene, mormorò Mason. Vattene al diavolo, fu l'augurio che gli lanciò il cognato. Attento, gridò Grace. I 3 signori fecero simultaneamente un balzo indietro e il signor Rochester mi spinse dietro di sé. La pazza gli si avventò contro e lo prese per il collo cercando di mordergli il viso ed egli lottò con lei, divincolandosi. La pazza era robusta, di statura quasi uguale al marito e per di più corpulenta. Dava prova di una forza virile in quella lotta e più di una volta fu sul punto di strozzarlo, benché egli fosse un uomo atletico. Egli avrebbe potuto abbatterla con un colpo bene assestato, ma evitava di colpirla, voleva soltanto liberarsi. Infine riuscì a prenderla per le braccia e gliele legò dietro la schiena con la corda che gli diede Grace. Poi con un'altra corda la legò a una sedia. L'operazione fu compiuta tra grida feroci e orribili convulsioni. Quando ebbe finito, il signor Rochester si volse agli spettatori e li guardò con un sorriso amaro e desolato. «Questa è mia moglie», disse, «e questi sono i soli abbracci coniugali che mi siano destinati. Queste sono le tenerezze che debbono addolcire le mie ore di riposo, e questa invece è ciò che desideravo avere», continuò, posandomi una mano sulla spalla. «Questa ragazza che sa rimanere così calma e grave davanti alla porta dell'inferno ed assistere senza smarrimento agli sgambetti di un demonio. La volevo appunto perché è così diversa da questa mia esperienza sciagurata. Wood, Briggs, guardate che differenza. Paragonate questi occhi limpidi con quelle orbite sanguigne, questo viso con quella maschera, questo corpo con quella massa di carne. E poi giudicatemi, lei ministro del Vangelo e lei uomo della legge, e ricordatevi che come giudicherete sarete giudicati. Ed ora uscite, devo richiudere la mia preda». Uscimmo tutti. Il signor Rochester si trattenne un momento nella stanza per dare ordini a Grace. Scendendo le scale, l'avvocato si rivolse a me. «Lei, signora, mi disse, non ha alcuna colpa e suo zio sarà felice di saperlo, seppure vivrà ancora, quando il signor Mason raggiungerà Madera. Mio zio? Che ne è di lui? Lo conosce, forse?» «Il signor Mason lo conosce. Il signor Eyre è stato per qualche anno corrispondente a Funchal della sua casa. Quando suo zio ricevette la lettera in cui lei gli annunciava il suo prossimo matrimonio col signor Rochester, e il signor Mason, che si era fermato a Madera per ristabilirsi in salute prima di ritornare in Giamaica, era con lui. Il signor Eyre gli comunicò la notizia sapendo che il mio cliente conosceva un signor Rochester, e il signor Mason, spaventato e meravigliato, come ben può supporre, gli rivelò come stavano le cose. Suo zio, signorina, mi addolora di doverglielo dire, è a letto malato, e data la natura del suo male, consunzione, e la gravità che ormai ha raggiunto, difficilmente riuscirà a guarire. Non potendo così venire egli stesso in Inghilterra per liberarla dalla trappola nella quale lei era caduta, supplicò il signor Mason di non perdere tempo e di impedire ad ogni costo questo falso matrimonio. Lo indirizzò a me perché lo aiutassi. Ho spiegato tutto il mio zelo e ringrazio il cielo di non essere giunto troppo tardi. Credo che anche lei farà altrettanto. Se non fossi certo che suo zio non sarà più su questa terra prima che lei abbia il tempo di arrivare a Madera, la consiglierei di partire con il signor Mason. Ma così come stanno le cose, ritengo sia meglio per lei rimanere in Inghilterra finché non avrà notizie più recenti del signor Eyre. Ha qualche altro motivo per trattenersi ancora?» chiese il legale rivolto al signor Mason. «No, no, no, partiamo», rispose quest'ultimo ansiosamente, e senza attendere di congedarsi dal signor Rochester lasciarono la villa. Il pastore rimase qualche minuto ancora per rivolgere poche parole, non so se di conforto o di rimprovero, al suo altolocato parrocchiano. Compiuto questo dovere, se ne andò egli pure. Io mi ero ritirata in camera mia ed ero ritta accanto alla porta socchiusa quando lo sentii andare via. La casa s'era vuotata ed io mi rinchiusi, tirando anche il paletto perché nessuno entrasse, ma non mi misi né a piangere né a disperarmi, ero ancora troppo calma per questo. Cominciai invece a togliermi macchinalmente l'abito da sposa per indossare il vestito che il giorno prima credevo di portare per l'ultima volta. Poi mi sedetti perché mi sentivo debole e stanca. Appoggiai le braccia sulla tavola e vi nascosi la testa mettendomi a riflettere. Fino a quel momento non avevo fatto che ascoltare, guardare e seguire colui che mi conduceva, o meglio, mi trascinava, assistendo al succedersi degli avvenimenti e delle rivelazioni. Ma ora pensavo. La mattina era trascorsa abbastanza tranquilla, salvo che per la breve scena con la pazza. In chiesa l'accaduto non aveva disturbato la quiete del luogo. Non vi erano state esplosioni di passione, né alterchi vivaci, né dispute, né sfide, né lacrime, né singhiozzi. Erano state pronunciate soltanto poche parole. Qualcuno aveva caldamente dichiarato che esisteva un ostacolo al matrimonio, e il signor Rochester aveva fatto alcune domande brevi ed aspre. Le risposte erano state concise e le prove addotte. Il mio padrone aveva apertamente ammesso la verità e ne aveva mostrato la prova vivente. Gli intrusi erano ripartiti e tutto era finito. Ero in camera mia, come al solito, proprio io, la Jane di sempre, in apparenza. Nessuno mi aveva colpito, né offeso, né ferito. Eppure, dov'era la Jane Eyre di ieri? Dov'erano la sua vita, le sue speranze? Jane Eyre era stata una donna così ardente e ansiosa, quasi una moglie, ed ora era di nuovo una ragazza triste e solitaria. La sua vita era scolorita, le sue speranze spente. Un gelo invernale. Era sopraggiunto a metà estate. Una bianca tormenta di dicembre aveva investito il giugno. Il ghiaccio aveva gelato le frutta matura. La tempesta aveva stroncato le rose in fiore, sui campi e sui prati era scesa la brina, i sentieri ancora ieri olezzanti oggi erano resi impraticabili da un'intatta coltre di neve, ed i boschi, che 12 ore prima stormivano fronzuti e fragranti alla tiepida brezza come oasi fra i tropici, ora si stendevano spogli e deserti e bianchi come le foreste di abeti della fredda Norvegia. Tutte le mie speranze erano morte. Uccise da un ambiguo destino, simile a quello che una notte colpì tutti gli innocenti in terra d'Egitto. Pensavo ai miei desideri più cari, ieri lieti e fiorenti ed oggi lividi, freddi e rigidi come cadaveri che nulla poteva rianimare. Pensavo al mio amore, quel sentimento che apparteneva al mio padrone che egli aveva creato, tremava nel mio cuore come un bimbo malato in una culla fredda. La sofferenza e l'angoscia l'avevano colto e non poteva rifugiarsi tra le braccia del signor Rochester, non poteva riscaldarsi sul suo petto, mai più avrebbe potuto rivolgersi a lui, perché la fede era svanita, la fiducia distrutta. E il signor Rochester non era più per me quel che era stato, perché non era quale io l'avevo creduto. Non che io volessi ascrivergli una colpa, né intendevo dire che mi avesse ingannata, ma non potevo più vedere in lui un uomo impeccabilmente leale e sincero, e dovevo allontanarmi da lui, questo lo capivo bene. Quando, come e dove andarmene, non lo sapevo ancora, ma egli stesso, ne ero certa, mi avrebbe fatta partire da Thornfield al più presto. Non poteva aver avuto per me un affetto sincero, mi dicevo, forse soltanto una passione passeggera, ed ora che questa era stata delusa, non desiderava certo più di avermi accanto. Temevo persino di incontrarlo, poiché la mia vista doveva riuscirgli odiosa. Oh, come ero stata cieca, come ero stata debole! La vista mi si oscurò, mi parve che una nera vertigine mi investisse e i miei pensieri si fecero confusi come un risucchio di acqua torbida. Abbandonata, sfinita ed impotente, mi pareva d'essermi stesa sul letto disseccato di un torrente. Udivo un frastuono d'acque che precipitavano a valle da lontani picchi e sentivo avvicinarsi la cascata, ma non avevo volontà di alzarmi, né forza per fuggire. Rimanevo distesa desiderando di morire. Una sola idea manteneva ancora una parvenza di vita in me, il pensiero di Dio, e da esso nacque una preghiera inespressa. Le parole vagavano nella mia mente smarrita, chiedendo d'essere pronunziate, ma non trovavo in me l'energia sufficiente. Mio Dio, dicevo mentalmente, non ti allontanare da me, perché il pericolo è vicino e nessuno può aiutarmi. Era vicino, infatti, e poiché non avevo levato al cielo alcuna preghiera affinché lo allontanasse, non avevo giunto le mani né piegate le ginocchia, né schiuse le labbra, e soggiunse. Il torrente mi investì con tutta la sua violenza. La mia vita derelitta e senza scopo, il mio amore perduto, le mie speranze infrante, la mia fede svanita, mi sommersero come un'onda rigonfia e ribollente e mi travolsero nella loro massa nera e rovinosa. Quell'ora amara non può essere descritta. Le onde mi penetrarono davvero nell'animo, affondavo nella melma, non sapevo ove aggrapparmi, l'acqua cresceva intorno a me e infine mi sommerse.